peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi una carrellata sulle produzioni discografiche più interessanti dell'anno scorso come gruppi italiani, musicisti italiani, e anche proprio perché ci sono diverse le produzioni di altissimo livello, sono molti progetti, gruppi, che appunto anche novità, anche musicisti nuovi che emergono sulla scena, che sono di alto livello. Cominciamo con una vecchia conoscenza, ormai un'adozione italiana anche se lui è americano, si tratta di Dan Kinselman al sassofono, tenore, e che lo ascoltiamo col suo Ghost Horse, un gruppo ormai ben rodato, la sua seconda produzione, che si propone con Il Bene Comune, un disco uscito per la Ora, con la formazione con Filippo Vignato al trombone, Glauco Benedetti alla tuba, Gabrio Baldacci alla chitarra, e Joe Remer al basso e Stefano Tamborrino alle percussioni. E, oltre naturalmente alla notevolissima qualità dei musicisti del gruppo, c'è anche è interessante la timbrica che viene sottolineata. Infatti la presenza della tuba è sicuramente molto determinante, insomma, nel creare il sound e il tipo di, come dire, di arrangiamento, anche di sonorità che vuole proporre questa formazione guidata da Dan Kinselman. Ascoltiamo un paio di brani. Questi erano i Ghost Horse guidati da Dan Kinselman, questo bel disco Il Bene Comune. Un altro lavoro interessante, decisamente ben riuscito, è quello di Gaia Matiussi, titolato Inner Core, con una formazione che vede la voce appunto della Matiussi accompagnata dal pianoforte di Alessandro Lanzoni, contrabbasso di Gabriele Evangelista e Enrico Morello alla batteria, ecco, poi anche come supervisore anche all'elettronica, effetti speciali, editing, Alfonso Santimone, un altro nome prezioso, quindi una formazione di alto livello anche questa. E ascoltiamo da questo bel disco un brano, una composizione. Thank you. Questa era Gaia Matiuzzi con Inner Core, l'ultimo lavoro uscito per la Out, con un'ottima formazione e anche un bellissimo esempio dell'utilizzo della vocalità. Per esempio il brano che abbiamo ascoltato, a mio avviso, ha una ricchezza melodica veramente molto interessante. Altro personaggio, questo in Italia ben poco conosciuto, direi, almeno per quanto mi riguarda, si tratta di Giuseppe Paradiso, che è un musicista barese che comunque è molto più presente a Boston e pubblica anche, pubblicato recentemente a Boston questo lavoro, Parallel Dimensions, che ha avuto anche una risonanza dal punto di vista della critica molto positiva. È un musicista che ha una preparazione tecnica ineccepibile, diploma conservatorio, insomma ha fatto tutto il percorso accademico, diciamo, per quanto riguarda la professione musicale, e poi è passato in toto al jazz, è un batterista. Qui lo vediamo appunto con questa sua formazione, lui è la batteria naturalmente, Mark Zaleski al contralto, Uttar Artun al pianoforte, Phil Sargent alla chitarra, e James Underwood Dale al contrabbasso e Malik Gnome alle percussioni. Ascoltiamo un brano da appunto uno spezzato di quello che è una sorta di omaggio alla musica di Miles Davis dagli anni 70 in poi, e anche la copertina stessa riprende e fa omaggia quella di Beach Brew. L'atmosfera tende ad avvicinarsi a questo, anche pur mettendo qualcosa di personale. Thank you. Questo era il gruppo di Giuseppe Paradiso, Parallel Dimensions, Giuseppe Paradiso, giovane talento barese, batterista, diciamo, agli inizi della sua promettente carriera, direi proprio. Altro giovane promettente, contrabbassista, è Andrea Grossi, che si è diplomato l'anno scorso al Conservatorio di Parma, quindi rimaniamo in questo caso, ritorniamo, anche non rimaniamo, in ambito emiliano, e è veramente uno dei dischi più interessanti da un punto di vista delle composizioni, usciti l'anno scorso, un disco intitolato Songs and Poems, uscito per la We Insist, e lo vede in trio con la sua formazione Blend, e con anche la presenza di Beatrice Arrigoni alla voce. È molto brava anche Beatrice Arrigoni, è anche molto ben inserita nel contesto delle composizioni. La formazione, oltre all'Arrigoni alla voce e Andrea Grossi al contrabbasso, Manuel Cagliumi al sax contralto, Michele Bonifati alla chitarra elettrica. Ascoltiamo un paio di composizioni prese da questo bel disco, uno dei migliori, a mio avviso, usciti l'anno scorso. Thank you. era Andrea Grossi Blend Free con Beatrice Arrigoni in Songs and Poems, questo ultimo lavoro, uno dei, diciamo, delle cose più interessanti uscite l'anno scorso da questo giovane contrabbassista. Ora passiamo a uno decisamente molto titolato, anche in questo caso uno dei dischi migliori dell'anno scorso. Adesso diciamo che la scelta è tra le cose migliori, indubbiamente. Si tratta di Riccardo Bersale con la sua Lydian Sound Orchestra, che ancora una volta si propone con un lavoro molto, molto interessante, molto ben riuscito, e anche di recupero, soprattutto di recupero di vecchi classici, e una rilettura con arrangiamenti interessanti. Si intitola No More Wrong Mistakes, e appunto è guidata da Riccardo Bersale. È una formazione molto ricca, perché Roberto Bonisolo, Rossano Emili, Mauro Negri alle anse, Gianluca Corollo alla tromba, Federico Pierantoni al trombone, Glauco Benedetti alla tuba, Marcello Abate alla chitarra, Matteo Alfonso al pianoforte e poi Mark Abrams al contrabbasso e Mauro Beggio alla batteria. Poi si aggiunge come ospite d'onore, ma molto attivo, David Murray al tenore, che naturalmente riesce a dare le sue zampate caratterizzando in diverse occasioni i brani. Ascoltiamo da questo ultimo lavoro della Lydian un brano. Questa era la Lydian Sound Orchestra guidata da Riccardo Barsale, con la presenza decisamente significativa di David Marr, l'abbiamo sentito in assolo magnifico. E un buon disco, decisamente ben riuscito, uscito per l'etichetta This Is Our Music, intanto una citazione colemaniana. E altro lavoro, anche l'ultimo che ascolteremo per oggi, almeno di cui ascolteremo un brano, l'ultimo disco di una formazione, Tell No Lies, guidata da un musicista bolognese, quindi Nicola Guassaloca, un pianista, compositore, che ormai da qualche anno si è proposto come una delle voci più interessanti sulla scena nazionale. E una formazione in quintetto con Edoardo Marraffa al tenore, al sax tenore, soprano, sopranino, varianze, al quale si aggiunge anche Filippo Orefice al tenore, e Luca Bernard al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria. Si aggiunge però in questo brano anche la presenza di un sax contralto, Federico Eterno, e un trombone, Federico Pierantoni. Ascoltiamo una dei momenti rappresentativi, diciamo, di questa formazione, che alterna momenti di musica improvvisata, di musica, diciamo, destrutturata, con altri invece molto godibili, molto, molto ben strutturati, con una solida, diciamo, un solido istinto di narrazione da parte del leader, appunto, di Nicola Guassaloca. Ascoltiamo questo brano preso da Hide Nothing. Thank you. Questo era il gruppo Hotel No Lies, ottimo gruppo guidato da Nicola Guastaloca, che ancora una volta conferma le proprie qualità, la propria capacità di composizione e di proposta. Disco intitolato Hide Nothing, ultimo uscito per l'etichetta Out Records. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, questa lunga carrellata di musica italiana di alto livello, a mio avviso tra le cose più belle e più importanti uscite l'anno scorso. Le altre, diciamo, che più o meno le abbiamo proposte già nelle puntate precedenti durante l'anno scorso. Era l'ultimo ascolto, dicevo. Vi ricordo che l'intera trasmissione la potete ascoltare nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist, potendo trovare anche poi tutte le indicazioni discografiche. Salve a tutti e alla prossima.